non lasciamoci cadere il mondo sulle mani. Combattiamo il sistema che ci porta la fame. Siamo già nella palude, ma chi ci salverà? Siamo schiavi dei padroni e politici corrotti. Siamo tutti clandestini, siamo tutti colorati. Riprendiamoci la vita da questo mondo ladro. Siamo tutti clandestini, siamo tutti colorati. Riprendiamoci la vita da questo mondo ladro. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sulle strade, nelle piazze sale il grido di protesta. Queste leggi non rispettano i diritti della gente. Il grigiore dei governi è un potere di paura. Voglio il sole e la mia luna per sognare ancora. Siamo tutti clandestini, siamo tutti colorati. Riprendiamoci la vita da questo mondo ladro. Siamo tutti clandestini, siamo tutti colorati. Riprendiamoci la vita da questo mondo ladro. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sulla pelle brucia ancora tutta la rabbia. La miseria è troppo nera come la galera. Porto avanti la ragione e non mi arrenderò. Ho spezzato le catene e voglio un mondo giusto. Siamo tutti clandestini, siamo tutti colorati. Riprendiamoci la vita da questo mondo ladro. Siamo tutti clandestini, siamo tutti colorati. Riprendiamoci la vita da questo mondo ladro. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. La borghesia non mi inganna con la sua moralità. La mia porta è sempre aperta alle emozioni e alla libertà. Ho liberato la mia voce verso cieli senza nuvole, senza scrupoli potenti che non vedono la povertà. Siamo tutti clandestini, siamo tutti colorati. Riprendiamoci la vita da questo mondo ladro. Siamo tutti clandestini, siamo tutti colorati. Riprendiamoci la vita da questo mondo ladro. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Il mio fiore è sempre rosso e lo porto nella lotta. Di bimbi soli al mondo tra miseria e lacrime. Nascerà un altro mondo dalle lacrime versate. Difendiamo la vita nel diritto e nella dignità. Siamo tutti clandestini, siamo tutti colorati. Riprendiamoci la vita da questo mondo ladro. Siamo tutti clandestini, siamo tutti colorati.